Olimpia, miti e verità dello sport, di Dario Ricci. Bagagliatore di Torre di Pordenone in forza al Corpo Forestale dello Stato, decima alle Olimpiadi di Pechino, ma il campione del mondo 2010 è il campione europeo in carica. Vediamola all'intertempo, 23.23 l'intertempo di Radilek Molmenti, 25 centesimi di ritardo. Un buon intertempo per Molmenti, sicuramente il passaggio ora deve cercare di fare quello che sa. Ottimo l'aggancio qui, ha messo la freccia sulla palina. 62.29 l'intertempo di Radilek Molmenti, 61.35 l'intertempo dell'azzurro, è di 94 centesimi migliore rispetto a quello del cieco. Affonda la pagaia della sua canoa rossa e poi surfa sull'onda. Esplodi, 94.78, ci sei, 94.78, 93. Il primo con un primo 45, è un grande. Che emozione incredibile quel primo agosto del 2012 al Lee Valley Water Center nel nord-est di Londra. Arrivava una delle medaglie d'oro più belle di quella edizione olimpica per l'Italia, a conquistarla, come avete sentito, nella canoa fluviale slalom, l'ospite che oggi ci onora di essere qui a fianco a me al microfono di Olimpia. Daniele Molmenti, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie, ciao. Daniele, beh, direi una giornata che vale una carriera, anche se poi tu nella tua carriera non è che altre cose non le abbia vinte. Ma è una giornata che ricordo soprattutto nel cuore, perché di testa a un certo punto non ho più capito niente. C'è un mix di adrenalina ed emozioni che ti fanno un po' sballare, diciamo, di testa. Ricordo una bellissima prestazione, ricordo l'abbraccio del mio allenatore e poi ricordo di essere entrato in un vortice mediatico dove non ho più avuto il controllo per un paio di giorni. Mi spostavano da giornalista a giornalista. Beh, meglio perdere il controllo nel vortice mediatico che invece nei vortici delle rapide, che invece là sei stato veramente straordinario quel pomeriggio. Ho fatto una bella prova, sì. Io erano anni che inseguivo una prova del genere ed è stata studiata davvero nel dettaglio, ogni centimetro di quel percorso l'ho studiato, prima a tavolino, a secco, con tanti chiaramente anche allenamenti, e la strategia di gara dalla semifinale alla finale è stata perfetta. Campione divino Daniele Molmenti, sì, perché nell'acqua ha costruito questo trionfo e una splendida carriera, ma in tutt'altra occasione devo dire ho avuto il piacere di conoscerlo, perché di recente ci siamo visti a Ripateatina, città deliziosa, cittadina deliziosa dell'Abruzzo, intorno a una tavola ben imbandita per parlare del rapporto tra sport e vino. E anche qui, Daniele, direi che stai conquistando delle medaglie niente male. Perché? Perché uscito dall'acqua, e vedremo poi con quali sviluppi, ti sei dedicato proprio alla produzione del vino. Come mai questa, insomma, di acqua ne hai bevuta anche abbastanza? Sì, diciamo che prima di Londra chiaramente ci sono sempre le domande: cosa farai in caso di vincita? E io facevo le battute che, siccome vinco tanto e quando vinco, insomma, festeggio con del buon prosecco, per risparmiare mi farò il prosecco mio, no? Da questa battuta me l'ho portata avanti, perché comunque nella testa c'era l'intenzione di comprarsi un pezzo di terra, insomma, e piantare vigna e avere un giorno, insomma, il mio nome in una bottiglia nel prosecco, come dico io, come lo voglio io. E così è stato, perché il giorno prima della gara con mio cugino è partita questa scommessa e ci siamo detti: bene, se domani vinci ti do anch'io una mano e facciamo la Molmenti e Celot, che poi che è diventata realtà. Quindi, insomma, quell'oro non solo che ha prodotto quelle emozioni e quella vittoria straordinaria, ma adesso sta ancora producendo vino. Sì, diciamo che il frutto dello sforzo fisico sportivo agonistico è diventato poi frutto nell'uva, insomma. Abbiamo fatto questa società, abbiamo comprato un appezzamento di terra con già della vigna esistente e per altra metà l'abbiamo piantata a noi, e io non volevo produrre subito il vino, però il secondo anno è stato, mi hanno chiesto di provarci, di mettere il mio nome, di fare qualcosa. E le richieste erano davvero tante, abbiamo detto: proviamoci, facciamo 5.000 bottiglie di questo prosecco. Mi sono affidato a dei terzisti, la cantina di Rauscedo, che, diciamo, vinificano per me, e il prodotto è piaciuto. Tra l'altro, anche non solo sul mercato italiano, se non sbaglio, è l'Inghilterra, la terra di conquista, no? Sì, perché chiaramente ho fatto delle interviste anche in inglese lì, e io ci tengo a promuovere quando posso la mia terra e i miei prodotti, quindi anche in Inghilterra dissi che avrei investito. Mi ricordo che quella serata c'era un amico di questo giornalista che mi ha dato un biglietto da visita dicendomi: quando hai la bottiglia fatti sentire. Due anni dopo mi sono fatto sentire e il prodotto è piaciuto. E da lì è stata una vendita quasi esponenziale. Adesso siamo arrivati quasi a 30.000 bottiglie, il prossimo anno speriamo di fare 50.000 per poi aumentare ancora di più. Sei tra l'altro in buona compagnia, perché mi vengono in mente altri campioni che in un momento della loro carriera hanno poi deciso di dedicarsi a questa passione che diventa poi anche attività vera e propria. Non so, penso all'abruzzese ex pilota di Formula 1 Jarno Trulli o ad Andrea Pirlo, che ancora gioca negli Stati Uniti ma intanto produce anche il suo vino. Ecco, secondo te c'è un legame in queste scelte, nel senso che forse dopo anni di stress, agonismo, c'è un sano ritorno alla terra, all'agricoltura, a ritmi non meno intensi ma forse più umani? Ma diciamo che già ai tempi dei latini, no? Dopo lo stress della vita quotidiana si dedicavano all'orticello di casa. E noi abbiamo un orto un po' più grande con qualche pianta in più. Poi però bisogna anche dire che noi atleti non possiamo bere spesso, e quando beviamo cerchiamo di bere bene. Non conosco Trulli, la sua impressione, però ad esempio con Moser abbiamo avuto dei rapporti e lì è l'intenzione di fare un prodotto come piace a noi, quindi quasi una cosa personale, no? Per poi capire, ci mettiamo il nome, la faccia, quindi sicuramente non vogliamo un prodotto scadente, no? Quindi ci teniamo. Ma poi penso che sia proprio bello vedere cosa c'è dietro la semplice produzione, insomma, di un vino, che in realtà c'è, oltre alla passione, la storia, c'è anche tanta scienza, tanta cultura, tanta metodica. Chiaro che non si arriverà mai alla perfezione, però come c'è stata una medaglia d'oro ci può essere anche l'annata perfetta e viene fuori un prodotto divino. Senti, il buon vino non fa girare la testa, un oro olimpico invece può dare un'ebbrezza con qualche effetto collaterale al limite anche negativo, può mandar fuori di testa quella gioia? Ma sicuramente un oro olimpico, una medaglia olimpica, insomma, cambia la vita, perché ti espone al grande pubblico, no? Quindi tutto quello che dici poi viene ascoltato da tante più orecchie. È una cosa che io dico spesso, è che abbiamo questo dovere civile di non dire stupidaggini, no? Quindi dopo ognuno, diciamo, con i soldi della vincita olimpica, pagate le tasse, se rimane qualcosa, insomma, fa quello che vuole. Io ho preferito investire sul futuro, anche per i miei figli, insomma, anche in quell'ottica lì. Però ho cercato di dedicare le mie uscite televisive, radiofoniche, insomma, non per dire stupidaggini con veline nella sala VIP di qualche casa piena di telecamere, proprio perché so che ci sono dei ragazzini che pendono anche un po' da quello che dico, che mi vedono come l'idolo, come il personaggio della TV, no? Preferisco far vedere che si può fare anche delle cose positive, oltre a vincere e poi godersi quella vincita, che poi è un godimento passeggero, no? Perché ci sono dei campioni olimpici che purtroppo vengono ricordati adesso non per la medaglia, ma per aver vinto qualche trasmissione, aver ballando, cose del genere. E penso sinceramente che non sia il modo migliore per essere ricordati, insomma. Schietto e sincero come il suo prosecco, mi viene da dire, Daniele Molmenti. Grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport, e un in bocca al lupo, accompagnato a questo punto da un brindisi col tuo splendido prosecco, perché arrivino ancora tante altre grandi soddisfazioni. Grazie, viva il lupo. Qualche istante di pausa, poi vi aspetto ancora qui a Olimpia. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. Olimpia, miti e verità dello sport. campioni divini, quelli che oggi raccontiamo, l'avete capito, a Olimpia, cioè gli assi dello sport che hanno legato la loro carriera, dopo carriera, i momenti importanti della loro vita al vino. Abbiamo sentito la storia di Daniele Molmenti, ma cosa accadeva nell'antichità, nell'antica Grecia? Qual era il rapporto tra i grandi atleti e il nettare degli dei? Beh, ne parliamo con il professor Gianluca Punzo, componente della Società Italiana di Storia dello Sport, di cui è responsabile del Dipartimento di Storia Antica. Professor Punzo, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Allora, professore, abbiamo visto come molti campioni di oggi leghino il loro dopocarriera al vino, considerato hobby piacevole o investimento sicuro. Ecco, ma qual era il rapporto tra il nettare degli dei e gli atleti nell'antica Grecia? Direi che ci sono una serie di leggi e di regole nel mondo antico legate al vino. In particolare non dovremmo dimenticare, per quanto possa essere una leggenda, che era vietatissimo bere il vino assoluto. Gli antichi greci bevono il vino tagliato, il vino mescolato con l'acqua. Quanto riguarda gli atleti il vino dovrei dire non lo toccavano, forse era vietato loro per quanto ci fossero banchetti, simposi nei quali bevevano, ma il rapporto con il vino è un rapporto quasi vietato. Può farci qualche esempio illustre di qualche campione pubblicamente biasimato, magari per il suo alzare il gomito? Esiste un caso, ne esistono tanti, uno in particolare di cui mi sono interessato, che è quello di Milon di Croton, atleta pluriolimpionico, vince 7 volte alle Olimpiadi, tra le altre vittorie. Milon di Croton ha una storia straordinaria, una serie di prove di forza, lo ricordano 700 anni dopo la sua morte ancora, a Olimpia, i sacerdoti raccontano queste prove di forza fantastiche, e Milon di Croton viene tacciato di essere stato un beone, di mangiare 10 kg di carne al giorno, 10 kg di pane, 10 litri di vino. Ovviamente si tratta di una denigrazione bella e buona, della volontà di colpire un atleta e di colpire un atleta straordinario, ma questo è dovuto al fatto che nel mondo antico, e penso alla lotta al pugilato, al pancrazio, queste gare, quindi atletica da contatto, le gare di contatto, per queste gare non esisteva una differenza legata al peso, come succede oggi nelle nostre gare moderne. Gli atleti praticamente combattevano l'uno contro l'altro, gareggiavano tutti contro tutti, gli allenatori prescrivevano quello che non era manco più un regime, li facevano mangiare in maniera esagerata per aumentare la loro massa corporale. In questo va detto bevevano anche vino, sempre quando parliamo di vino antico, ripeto, vino mescolato all'acqua. Da quello che leggevo, il controllo stretto prima della gara non si esercitava solo su quello che bevevano gli atleti, eh? Da questo punto di vista era tenuto lontano dalle diete, dal regime alimentare di ciascun atleta. Tra l'altro nell'unico trattato che c'è rimasto, che è il trattato sulla ginnastica di Filostrato, oltre all'assenza di vino nel regime alimentare, va detto che c'è anche un controllo eccessivo su quelle che sono perfino il controllo sul sesso, e quindi assolutamente nessun rapporto sessuale. Non si tratta di inglesi, si tratta di greci, ma niente vino e niente sesso. E questo era un controllo straordinario degli allenatori sui loro atleti. Ma tornando alla tavola, in cosa consisteva l'alimentazione di un atleta nella Grecia classica? Per quanto ne sappiamo, l'alimentazione è un'alimentazione molto varia: pane e miele, latte di capra, frutta secca, tantissima frutta secca, fichi, noci, pane di farro con vegetali, olive nere, uova, formaggio di ogni genere e ovviamente carne, tanta carne, verdure cotte e crude, pesce di qualunque genere e qualunque tipo. L'unico vero controllo da questo punto di vista, ripeto, è quello proprio sul vino. È un controllo particolare che è dovuto al fatto che il vino da sempre, secondo non solo gli elleni, poteva in qualche modo far perdere, se non la forza, far perdere il controllo a questi stessi atleti. Ecco perché regime alimentare, ma sul vino purtroppo ci sono delle preclusioni emozioni molto molto forti, tant'è vero che, ancora una piccola nota, Filostrato nella ginnastica, in questo trattato del cavallo tra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo, sottolinea come alcuni allenatori abbiano fatto diventare i loro atleti sibariti. Sibariti? Ecco, cosa vuol dire, professore? Ci spieghi. Sibarita, da Sibari, città dell'attuale Calabria, città dell'antica Grecia d'Occidente, di quella che ci hanno insegnato a chiamare Magna Grecia, chiamare sibariti gli atleti era un modo per offenderli. Purtroppo diventa un aggettivo negativo, perché i sibariti sono quelli che si sono lasciati andare a ogni mollezza, e tra l'altro a proposito del vino si dice che erano quelli che producevano vino nelle loro aziende agricole, e il vino arrivava attraverso delle condutture, attraverso delle tubature, direttamente nelle loro cantine. In più, per chiudere il discorso vino, sibariti, atleti, i sibariti sono quelli che secondo la tradizione hanno inventato il vaso da notte, non tanto per tenerlo sotto il letto, ma durante i simposi, durante le bevute, per evitare di alzarsi, restare al posto e poter mingere tranquillamente. Chiamare sibarita o gli allenatori, o meglio gli atleti, era un'offesa incredibile. Ma almeno qualche strappo alla regola era possibile in caso di vittoria? Come si festeggiava? Sicuramente se lo concedevano, sicuramente sono gli stessi atleti, una volta che hanno vinto, soprattutto a Olimpia, a offrire banchetti a tutti i convenuti, molto spesso anche agli stessi spettatori, a tutti quelli che capitavano da quelle parti. A bere bevevano, questo è poco ma sicuro, sono comunque, si tratta soprattutto nella parte diciamo dello sport professionistico del V secolo, i grandi atleti sono aristocratici, sono elementi fondanti, portanti di una società che ha nel vino comunque un alimento importantissimo, anche un simbolo importantissimo. Si tratta comunque di quell'alimento, si tratta di quella bevanda che è al centro del simposio. I greci si sono inventati questa straordinaria siumpinen, bere insieme, il momento in cui gli uomini si alzano, o meglio sono in quella che noi chiameremo tavola, questa gente non mangia a tavola, sono stesi su dei divani, ma bevono e mangiano insieme, assolutamente senza donne, è un ambiente chiuso ed è il momento al di là successivo alla cena in cui si riuniscono e bevono. Gli atleti, al pari di tutti, sono aristocratici, sono personaggi importantissimi della società, questa gente beve, ci mancherebbe, ma sempre comunque in maniera controllata, dovrei dire. E per chi invece il controllo lo perdeva, che succedeva? Una cosa straordinaria, per chi esagerava esisteva un preparato fatto con un trito di polmoni di capra, mandorle amare e soprattutto cavolo crudo. Io non so se passava la sbornia, di sicuro vomitavano l'anima, e quindi da questo punto di vista si erano in qualche modo salvati da una rampogna dell'allenatore. Un'ultima curiosità, parlavamo anche dell'astinenza sessuale prima delle gare, ma insomma se uno vinceva, ecco, ci siamo capiti, no professore? Non abbiamo, per quanto riguarda il mondo greco, tradizioni, o meglio fonti più che tradizioni. Fonti legate a questo. Sappiamo per certo che Astilo di Croton, V secolo avanti Cristo, o Icco di Taranto, medico, allenatore e anche atleta, si astenevano totalmente dalla pratica sessuale per arrivare alle gare tranquillamente, nel momento di maggiore sforzo dell'allenamento. Noi abbiamo, come succede invece per il mondo romano, e per il mondo romano però si parla di spettacolo più che di sport, e penso ai gladiatori, a quel momento particolare, diciamo, di incontri sessuali con i gladiatori, perché erano una sorta di ideale virile. Per i greci, per gli atleti, non abbiamo fonti così approfondite, o comunque non ce ne sono tantissime. Direi che se lo hanno fatto di sicuro, ma non lo andavano a dire. Professor Gianluca Punzo, grazie per essere stato ospite di Olimpia, la città dello sport. È stato un vero piacere. A presto e di nuovo, buona serata a tutti. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.